parade che si terrà a Bari sarà più che altro un tentativo di ricombinare diverse soggettività sociali che riguardano appunto le nuove forme del mondo di lavoro, no? Noi sostanzialmente ci auspichiamo che in questa giornata ci sia una presa di parola diretta, insomma, di tutto il precariato sociale, o meglio, ci sarà sicuramente. Quindi scenderanno in campo un po' i lavori interinali, a partita IVA, la gente che sta in formazione lavoro, tutti i soggetti che lavorano a prestazione occasionale, però nello stesso tempo ci saranno anche i migranti, che sono sempre più cittadini a tempo determinato, però ci saranno anche gli studenti, i ricercatori, quelli che rifiutano insomma una privatizzazione dei saperi, la distruzione di scuole e università pubblica, ma anche i lavoratori della new economy, call center. Ecco, è questo variegato mondo del lavoro, diciamo, e del non lavoro che sfilerà nella street parade, no? E insomma, alla fine siamo 7 milioni di precari in Italia, 30 milioni di part-time in Europa, quindi questo è un fenomeno che non è sicuramente marginale e minoritario, e quindi ci sarà insomma questa soggettività, il precariato sociale che sfilerà per le vie di Bari. Poi sicuramente c'è un fatto per entrare, noi vorremmo comunque anche portare all'attenzione un po' alcuni problemi della città, insomma, a Bari mancano sicuramente spazi di aggregazione sociale ed è inesistente una politica di ridistribuzione delle risorse, insomma, il welfare municipale barese è molto arretrato, insomma, si orienta ancora su dei modelli novecenteschi e quindi sono anche questi temi un po' qui che verranno in qualche modo prenderanno corpo, insomma. Ecco, Bari è povera di spazi di aggregazione sociale. Bari adesso sta costruendo un nuovo centro di permanenza temporanea che, insomma, sicuramente sottrae fondi al welfare municipale. Ecco, questo nuovo centro di permanenza temporanea per migranti da espellere che si sta costruendo al quartiere San Paolo costa all'incirca 5 milioni di euro e sicuramente anche la sua gestione sarà altrettanto costosa. Ecco, diciamo, la nostra proposta alla città di Bari è che a fronte delle attuali condizioni di crescente precarietà del mercato del lavoro e, diciamo, di un impoverimento della vita di tutti, pensiamo che questi 5 milioni di euro invece debbono essere in qualche modo ridistribuiti in forma di diritti.